Questo è molto bello, insomma, sia i figli che il marito, che poi sappiamo è Sam Mendes, un regista, quindi che sicuramente capisce le esigenze di Kate, l'ha anche diretta in Revolutionary Road, e dice lui ai miei figli, let me do what I love, cioè mi lasciano fare ciò che amo e soprattutto they love me just the way that I am, mi amano così come sono, che è un po' il sogno di chiunque, essere amati per quello che si è. Beh, molto carina Kate Winslet, che finalmente è riuscita ad avere questo Oscar. Ne parlavamo in qualche puntata fa, era alla sesta nomination, non ce l'aveva mai fatta. Un altro attore molto amato tra gli americani ce l'ha fatta spuntare, una corsa molto difficile tra gli attori che componevano la cinquina per il miglior attore protagonista. Ce l'ha fatta per il film Milk, Sean Penn. As all us actors know, our director either has the patience, talent and restraint to grant us a voice or they don't, and it goes from the beginning of the meeting to through the cutting room, and there is no finer hands to be in than Gus Van Sant. I think that it is a good time for those who voted for the ban against gay marriage to sit and reflect and anticipate their great shame and the shame in their grandchildren's eyes if they continue that way of support. We've got to have equal rights for everyone. Allora, Sean Penn ha avuto tante parole di ringraziamento per tutti, noi abbiamo scelto quelle che ha avuto per il suo regista. Dopotutto, chi viene premiato come miglior attore è stato anche diretto da un bravo regista, inevitabile, lo dice. Sì, si sente questa voce davvero emozionata, no? Sean Penn fa sempre molto il duro, ha iniziato con film come Rusty il Selvaggio, però qui era, credo, sinceramente emozionato, e quindi ringrazia il regista, the director, e dice, as all of us actors know, come tutti noi attori sappiamo, e poi spiega che o il direttore o il regista in un modo o in un altro, cioè either a director has the patience, the talent and the restraint, quindi o un regista ha la pazienza, il talento e la capacità di esercitare un po' di controllo to grant us a voice, per garantirci la nostra voce, oppure non ce l'ha. Or he doesn't. E questo deve averlo dall'inizio alla fine, e lui individua due momenti. Sì, dice the beginning, cioè il meeting, quel sedersi intorno a un tavolo per discutere il copione completamente a freddo, to the cutting room, cioè la stanza dove si fa il vero e proprio montaggio, dove si guarda tutta la pellicola, tutto il girato, che a volte sono decine di ore, e si riduce a quello che poi sarà il film. E il regista, se è un buon regista, lo è dal primo all'ultimo momento. E un attore nelle mani del regista, in questo caso nelle mani di Gus Van Sant. Il regista naturalmente di Milk, e Sean Penn dice there's no finer hands to be in than Gus Van Sant. Cioè non ci sono, fine vuol dire naturalmente, vuol dire sottile, ma vuol dire anche intelligente, fatto bene, quindi non ci sono mani migliori, potremmo dire in italiano, oppure non è possibile essere in mani migliori, dove dobbiamo usare una parafrasi, un modo di dire leggermente diverso, di quelle di Gus Van Sant. Sean Penn, attore impegnato, lo sappiamo, non poteva non lanciare un messaggio anche dal palco del Kodak Theatre. Sì, chi ha visto il film sa che appunto è la storia successa solo 30 anni fa di un attivista omosessuale che è stato ucciso anche perché era omosessuale, e quindi la questione è quella dei diritti degli omosessuali, e lui coglie l'occasione per dire I hope those who voted for the ban against gay marriage. Sapete che nel mezzo di questa grandissima vittoria di Obama c'è stato poi in California questo ban against gay marriage, cioè la California che aveva garantito il diritto agli omosessuali di sposarsi lo ha annullato, e adesso dice Sean Penn sedete, sit down and reflect su cosa avete fatto, perché naturalmente secondo lui hanno sbagliato. Beh, passiamo dal miglior attore al miglior regista, lo sappiamo, è stato un trionfo per The Millionaire, che ha preso anche il premio alla miglior regia, ed è andato a Danny Boyle. My kids are too old to remember this now, but when they were much younger, I swore to them if this miracle ever happened that I would receive it in the spirit of Tigger from Winnie the Pooh. And that's what that was. You have been so generous to us this evening, and I wanted to thank you for that, and also for an extraordinary, what a beautiful show you've done. I don't know what it looks like on television, everybody, but in the room it's bloody wonderful, really. So well done, everyone. To Mumbai, Inseparable Unborn, all of you who helped us make the film, and all of those of you who didn't, thank you so much, and you dwarf even this guy. Thank you very much indeed. Abbiamo sentito degli accenti molto diversi. Abbiamo sentito Kate Winslet, che è molto inglese, poi abbiamo sentito Sean Penn, che invece è molto americano. Qui Danny Boyle, che viene da Manchester. Ragazzi, più inglese di lui non abbiamo sentiti, eh? E quindi lui dice: "My kids are too old to remember, much younger." E invece naturalmente gli americani dicono much younger, e Kate lo direbbe in un modo ancora leggermente diverso, ma insomma quello che lui vuole dire è che i suoi figli sono too old to remember, sono già troppo vecchi per ricordarsi di una cosa che succedeva quando erano bambini, quindi altro sogno da bambini. Cioè lui aveva fatto un giuramento, I swore to them. E il giuramento era irresistibile, infatti tutti ridono. Tutti conoscono, credo almeno, Winnie the Pooh, che poi è un vecchio storia illustrata, ma che ha conosciuto grande successo anche di recente. Uno dei compagni di Winnie the Pooh, che è l'orsetto che è ghiottissimo di miele, è Tigger, che è molto che è una tigre molto gentile, quindi ha questo spirit of Tigger, che è lo spirito appunto della tigre gentile. Quindi lui aveva giurato ai suoi bambini che avrebbe ricevuto l'Oscar così, con quello spirito. E tra i ringraziamenti con questo spirito fatti da Danny Boyle c'è anche quello alla città che ha reso possibile la realizzazione di questo The Millionaire. Naturalmente Mumbai, la vecchia Bombay, naturalmente, che dove si è girato gran parte del film. E naturalmente c'è un ringraziamento anche alla messa in scena hollywoodiana. Sappiamo che Hollywood ha accolto forse incredibilmente fin troppo bene questo film, che non era un film di grande, non era un colossal, soprattutto non era un film americano. E quindi lui dice, con un pochino, appena un attimo di accenno di ruffianismo, secondo me, dice: "You are being so generous to us this evening." You inteso come Hollywood, come l'Academy, come il pubblico americano. Fa anche dei complimenti così, non serve più come captatio benevolenze perché il premio l'ha vinto, però i complimenti li fa lo stesso. Addirittura quella chiccissima cerimonia che penso siamo tutti d'accordo è la consegna degli Oscar, però lui dice "I don't know what it looks like on TV", non so come sembri vista dalla televisione da chi è a casa, però in questa room, in this room is bloody wonderful. Bloody naturalmente viene da blood, ma non possiamo tradurlo come sanguinolento perché gli inglesi lo usano per dire terribilmente fantastico, quindi è un rafforzativo un po' da slang, naturalmente molto British, molto da Manchester. E quindi facciamo anche i complimenti a Danny Boyle, così come a Kate Winslet e a Sean Penn. Abbiamo sentito tre brevissimi estratti perché i discorsi erano molto molto più lunghi. Il nostro tempo radiofonico per questa settimana finisce qui, però durante tutta la settimana vi può tenere compagnia il nostro English 24 in edicola da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. L'augurio di una buona serata.